So the real identity means monk. What is monk? Una figura di cui si discute con reverenza e apprensione. Ma chi è veramente il Dalai Lama? Già premio Nobel per la pace, additato dalle autorità cinesi come il lupo malvagio travestito da uomo. Il regista inglese Joshua Dugdale ha seguito per 3 anni il Dalai Lama e ha avuto accesso al volto più intimo e veritiero del monaco tibetano dal 59 in esilio a Dharamsala. A Londra, il documentario in prima mondiale di A Winking Gaze, Lo sguardo imperturbabile, è stato accolto come il film della speranza, un ponte tra Cina e Tibet dopo le violenze di Lhasa, che può mostrare al mondo le reali ambizioni di questo monaco in cerca di libertà e non indipendenza per il suo popolo. Sarebbe felice di essere cittadino della Repubblica Popolare Cinese? Gli domanda il regista. Oh, yes, certainly, no problem. Il film vuole fare da cassa di risonanza alla sua richiesta di dialogo con la Cina. Molte le aspettative attorno al 14° Dalai Lama, che è l'apertura delle Olimpiadi.